Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, l'Europa, sicuramente ne parleremo nella seconda ora del programma. Perché? Perché oggi vi è stato l'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, l'Europarlamento a Strasburgo, ha parlato anche e soprattutto di Europa, al di là delle contestazioni dei leghisti, usando il doppio passo di un'Europa da cui non si può tornare indietro, ha detto Napolitano, nulla può farci tornare indietro dall'Unione Europea, e ha criticato le agitazioni distruttive contro l'euro, però ha detto anche attenzione, l'austerità ad ogni costo non regge più, c'è un circolo vizioso creato dalle politiche restrittive. Devo dire, non so se questo comporti qualche problema, io sono totalmente in linea con il Presidente della Repubblica su questo aspetto, cioè si può essere critici nei confronti di chi ha agitazioni distruttive contro l'euro e critici allo stesso modo però verso un'Europa che negli ultimi anni, da quando è scoppiata la crisi, ha assunto un carattere prevalentemente ragionieristico in cui l'austerità comanda su ogni cosa, in cui le politiche restrittive ci stanno avviluppando, da qui la dichiarazione di Napolitano, ci stanno avviluppando in un circolo vizioso per cui più hai politiche restrittive più calano i consumi, più calano i consumi più cala il PIL, e adesso tutti a paventare il rischio deflazione. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, dicevo, mentre nella prima ci occupiamo dell'Italia, o meglio teniamo assieme la vicenda Electrolux, che è ancora una vicenda molto delicata. Oggi l'amministratore delegato ha annunciato che non vi è nessuna intenzione di lasciare l'Italia, ma teniamo assieme a questo anche la missione che si è conclusa oggi di Enrico Letta negli Emirati, dopo Dubai, Abu Dhabi e Qatar, oggi tappa Kuwait City. Devo dire, per non essere sempre critici, che è una missione che i suoi risultati li ha portati, mi riferisco non solo alla vicenda l'Italia e Etihad, ma anche all'ingresso nel capitale dell'ENI del fondo sovrano del Qatar, un eventuale ingresso nelle Poste Italiane, accordi in vista anche per Finmeccanica, commesse di elicotteri e di radar, il coinvolgimento di Salini in pregiro Todini e Ansaldo Breda nella costruzione delle infrastrutture per i mondiali del 2022, oggi l'annuncio che il fondo sovrano del Kuwait investirà 500 milioni di euro in Qatar. Resta però ancora sul tema la polemica tra il Presidente del Consiglio e il Presidente di Confindustria, perché dice oggi esplicitamente Enrico Letta, ha detto basta con atteggiamenti di disfattismo. Io qui invece, così come ricordiamo che questa missione è stata, ha ottenuto i suoi risultati, si può anche dire che a mio avviso la polemica è inutile, nel senso che nessuno può essere accusato, abbia pazienza anche il Presidente del Consiglio, di disfattismo, se ricorda che continuare a ricordare, a sottolineare come questo è il primo anno in cui non si parte col segno meno, la ripresa c'è, lo dice anche il Presidente della Repubblica. Sì, ho capito, i segnali saranno innegabili, ma sono ancora molto timidi e molto modesti. E a mio avviso, se le categorie produttive, non mi interessa che si chiamino Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, dicono attenzione perché qui la sofferenza è ancora forte, il rischio deindustrializzazione del paese è ancora molto alto e bisogna stare attenti a descrivere un 2014 roseo, visto che gli italiani almeno fino a giugno di roseo non vedranno nulla, a mio avviso è inutile dire disfattismo, anche perché il disfattismo, proprio come termine, ricorda la propaganda bellica, nacque infatti contro chi, soprattutto usato dal fascismo, non sto dicendo che Letta sia un fascista, ci mancherebbe, però è un termine che proprio ricorda chi sosteneva che forse la guerra non l'avremmo vinta e veniva accusato di essere disfattista. Ecco, attenzione ai paralleli, attenzione ai paragoni, non mi sembra una gran soluzione liquidare gli avvertimenti alla cautela come avvertimenti di disfattismo, manco stessimo per vincere una guerra e ci fosse chi rema contro. Tra l'altro il presidente Confindustria Squinzi è tornato a dire che i numeri non fanno guardare il futuro con ottimismo, che il PIL in crescita dello 0,6-0,7% non basta a creare occupazione. E ancora oggi ha detto, ma lo ascolteremo in audizione, che ha il diritto, ha detto Squinzi, ho il diritto e il dovere di dire quello che serve, c'è massima collaborazione con il governo, ma occorre agire subito, il tempo è scaduto. E poi ha aggiunto Squinzi, l'Italia è tenuta in ostaggio da una burocrazia soffocante, o invertiamo la rotta o ci porterà al naufragio. Allora, a mio avviso ha ragione, noi raccontiamo anche casi minori, quello di ieri sul fondo per il merito, 20 milioni di euro, saranno poca roba, bloccato da 3 anni perché lo si rimpalla l'autorizzazione da un ministero all'altro, ma insomma è possibile che i dirigenti dei ministeri non paghino mai, anzi vengono ben pagati ma paghino poco di tasca loro? Allora, si può dire che nulla è stato fatto sul fronte dello snellimento burocratico di questo paese senza essere chiamati disfattisti? Secondo me sì, si può dire che stiamo ancora attendendo le indicazioni del commissario Cottarelli, che sta facendo il suo lavoro, però adesso dopo tanti annunci vorremmo capire da dove arriveranno i 3 miliardi di tagli alla spending review, grazie alla spending review, che c'è una difficoltà proprio cronica della politica nell'affrontare quella che è non la pubblica amministrazione in senso lato, è giusto che vengano pagati anche di più gli insegnanti e gli infermieri e i poliziotti, ma ci mancherebbe, ma nell'affrontare quelle che sono le duplicazioni, triplicazioni dei nuclei, dei gangli, dei ministeri, si può dire che tutti hanno paura di perdere voti o che sono ricattati dal potere di sti dirigenti? A nostro avviso sì. Per quello che riguarda invece la borsa, più 0,66% Milano, che fa meglio di altre borse europee, più 0,30 Parigi, meno 0,50 Francoforte e Londra meno 0,15%. Ancora, tra i titoli, Jux più 6,50, A2A più 3%, Pop Milano più 2,70, Intesa San Paolo più 2,20, Fiat più 1,90, come Mediolanum, Azimut più 1,80, Ferragamo più 1,70, UbiBanca più 1,5, Banco Popolare più 1,30 ancora Unicredit più 1,20%, è nel più 1%. Chi perde? Poca roba oggi. Snam meno 1,60, Luxottica meno 1,40, Saipe meno 1,20, Terna meno 0,70, come World Duty Free, Eni mezzo punto percentuale di calo. Ancora parleremo dell'INPS, vedo molti messaggi anche oggi su Mastra Pasqua. Sì, ripeto, anche noi siamo rimasti sorpresi del fatto che fosse stato condannato per aver comprato degli esami. E ancora, però oggi c'è un diciamo una notizia un po' interessante sull'INPS, che insomma, come scopre anche tra virgolette scopre Sole 24 Ore, c'è un'analisi sui trasferimenti dallo Stato all'INPS. Visto che l'INPS non può fallire, il disavanzo di bilancio viene coperto ogni anno dai trasferimenti dello Stato, solo che negli ultimi anni sono aumentati in maniera consistente. Negli ultimi 5 anni noi Stato abbiamo praticamente sborsato abbiamo sborsato 39 miliardi in più, ossia per un totale di 73 miliardi nel 2008, diventati 112 miliardi nel 2013. Ancora i numeri sono destinati a crescere, attestandosi a 119 miliardi nel 2014 e 122 miliardi nel 2016. Alla faccia di Mastra Pasqua, evidentemente era distratto da qualche altro suo incarico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. In realtà la cosa ancora più grave lì è che noi stiamo pagando le pensioni di chi va in pensione adesso con i giovani, e quindi questo potrebbe non durare nel futuro, ma ce ne occuperemo più avanti. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, veniamo all'economia internazionale, visto che la Banca Centrale Europea, secondo quanto riportano vari organismi di stampa, attraverso Mario Draghi starebbe guardando alla Bundesbank per un'iniezione di fondi. In ballo ci sono circa 180 miliardi di euro nel sistema per frenare la volatilità dei tassi sui mercati monetari. Ancora per quello che riguarda la crisi, secondo il Wall Street Journal, l'euro potrà tornare ad essere un porto sicuro negli ultimi anni, dice il Wall Street Journal. Questo lo dico anche a chi critica l'euro. È stato il barometro del rischio e quando i mercati erano in tensione la moneta unica calava. Nelle ultime settimane il rapporto è cambiato per via anche delle difficoltà e della fuga dalle valute dei paesi emergenti, aggiungo io, spingendo alcuni analisti a ritenere che l'Europa, dopo anni di crisi, possa tornare ad essere un rifugio dei capitali. Potrebbe essere una buona notizia, continua il Wall Street Journal, per l'Europa. Solo 2 anni fa era alle prese con una crisi che sembrava minacciare la sopravvivenza dell'euro stesso. E visto che siamo in tema di euro, ne parleremo più avanti. Comunque la Lega contesta il Presidente della Repubblica Napolitano, varie sezioni esposte durante il discorso del Presidente a Strasburgo, molto criticato l'intervento della Lega dal Presidente dell'Europarlamento Schulz, dice era una battaglia politica interna inaccettabile che venga portata nell'Europarlamento. Ancora, volete sapere se cosa ha detto Napolitano sui segnali di ripresa? Ha detto che i segnali di ripresa sono indiscutibili. L'Italia, inflazione, l'Istat a gennaio ancora ferma allo 0,7%, siamo sempre ai minimi da 4 anni a questa parte. Sul dicembre, quindi sul mese precedente, siamo a un più 0,2%. Il prezzo del carrello della spesa, cioè dei beni più comprati, di solito è dell'1,1% come aumento. Sono sostanzialmente i prodotti ad alta frequenza, dello 0,3% sul mese. È cambiato però questo paniere, non facciamo un approfondimento, l'Istat cambia il paniere ciclicamente. Diamo come notizia di cronaca il fatto che nel 2014 entrano la sigaretta elettronica e le ricariche, il caffè in cialde o capsule e l'apposita macchina, il giornale quotidiano online e i sacchetti ecologici per rifiuti organici, il formaggio grattugiato in confezione. Adesso un paio di notizie che riguardano i costi della nostra pubblica amministrazione. Non possiamo fare una rubrica quotidiana, Però, su questo oggi ci occupiamo. In realtà dobbiamo ringraziare il professor Perotti che sta conducendo questa inchiesta sulle spese della pubblica amministrazione. Ci occupiamo degli ambasciatori italiani. Sono un capitolo, ci siamo occupati anche dei costi dello Stato Maggiore, dei generali del nostro esercito, aviazione aeronautica. C'è quello, però ci sono anche altre amenità. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Giustamente, se io dico che sono d'accordo col presidente Napolitano va bene, che se dico che sono d'accordo con il presidente del Consiglio Letta sulla missione, sull'esito della missione va bene, se dico che sono d'accordo con il presidente Confindustria Squinzi invece sono un aziendalista che si allinea a quello che dice il padrone. Va bene. Allora, i nostri ambasciatori, ho nulla in contrario, ci mancherebbe, anzi, ricordo un vecchio progetto di Berlusconi, trasformare le ambasciate in uno sportello per lanciare le aziende italiane all'estero, la penetrazione delle aziende italiane, poi non se ne è fatto nulla. Però in realtà gli ambasciatori sono importanti come i consoli quando lavorano bene, quindi non è una critica al ruolo, è una critica ai costi. Cioè, mi dovete spiegare perché, col massimo rispetto per il ruolo svolto, i nostri ambasciatori, come scopre appunto Perotti, guadagnino in media il doppio di quelli tedeschi. Allora, noi la critichiamo la Germania, però poi bisogna anche prendere lezioni dalla Germania. Perché l'ambasciatore italiano a Parigi incassa ogni mese, tra stipendio e indennità di trasferta, 21.000 euro netti a fronte degli 8.500 euro netti del collega tedesco? Chiedo. A Londra il nostro ambasciatore, tra l'altro l'ambasciatore nei paesi dell'Unione Europea, obiettivamente ha un lavoro un po' più basso e meno importante, visto che siamo nella stessa Unione Europea di chi fa l'ambasciatore nei paesi extra UE, non so. Tanto non è a Londra, non è più con l'ambasciatore, con la feluca, che facciamo gli accordi diplomatici, c'è Bruxelles. Comunque a Londra 21.800 euro netti per il nostro ambasciatore, quello tedesco ne prende 8.449. A Mosca 27.000 euro netti al mese contro i 10.000 di quello tedesco. A Washington 24.000 euro netti contro i 9.500 di quello tedesco. A Tokyo 27.000 euro netti contro i 10.000 dell'ambasciatore tedesco. A Pechino 24.000 euro netti contro i 10.000 dell'ambasciatore tedesco. Allora, o mi dimostrate che gli ambasciatori tedeschi vivono in miseria, che non servono, che la Germania non riesce a sviluppare rapporti commerciali con le sue ambasciate e che i nostri ambasciatori valgono più del doppio di quelli tedeschi, oppure stiamo pagando troppo le nostre feluche all'estero. E il tutto in un paese in cui poi altri dipartimenti, altri dicasteri, penso al Ministero della Giustizia, vivono in una cronica emergenza per quello che riguarda l'informatizzazione, soprattutto l'adeguamento. Sappiamo, l'abbiamo raccontato, di cancellieri che devono ancora copiare in alcuni casi le sentenze a mano, che mancano le fotocopiatrici, mancano anche le attrezzature nel 2014 per fare delle banali videoconferenze. Perché lo dico? Perché tutti i giornali giustamente hanno riportato l'evasione di Domenico Cutrì, che ha portato poi alla morte del fratello. Pochi hanno notato però che il mezzo della polizia penitenziaria arrivava dal carcere di Busto Arsizio. Perché due macchine con quattro uomini a bordo, armati fino ai denti, in attesa di una via laterale, scortavano Domenico Cutrì? Perché doveva testimoniare. Allora io chiedo, al di là dell'atto criminale, ma è possibile che nel 2014, per testimoniare a pochi chilometri di distanza, non si riesca a organizzare una testimonianza via telematica? No, perché mancano le risorse, mancano le strutture. Ma tanto noi siamo il paese che, non so, per esempio in Sicilia, mentre il blocco, lo stallo della legge finanziaria ha fermato i pagamenti degli stipendi per più di 60.000 lavoratori, tra dipendenti regionali, lavoratori a contratto e i famosi forestali, invece non si sono fermati i pagamenti degli stipendi dei politici eletti in regione. Perché c'è un tesoretto da 5 milioni di euro che ha accumulato l'Assemblea regionale siciliana con i soldi provenienti dall'ex fondo di solidarietà per le buone uscite dei deputati, che ha permesso di pagare in tempo non solo i parlamentari, ma anche i 240 amministrativi e gli 80 stabilizzati dei gruppi. Ora, è tutto regolare, però non è bello vedere che tu hai 60.000 dipendenti che attendono lo stipendio, ma lo stipendio dei parlamentari e degli amministrativi arriva puntualmente giovedì 23 gennaio. Nel frattempo, no, non voglio entrare, qualcuno di voi mi chiedono sulla polemica per i pass comunali nel comune di Roma. Mi sembra che il comune di Roma abbia ben altri problemi. Certo, fa un po' specie vedere che l'ex ministro e senatore Giulio Tremonti è ancora tra chi può posteggiare l'auto gratuitamente sulle strisce gialle e blu, anche Maria Stella Gelmini, Roberto Formigoni, Matteo Mauri del PD, che è capogruppo del PD a Milano, Rocco Buttiglione, Vinicio Peluffo, Matteo Salvini, Enzio Casati, Luigi Casero. I pass erano 1.764 nel 2012, adesso erano scesi a 1595, sono tornati a salire 1621 e praticamente la pattuglia di consiglieri comunali sono 42 quelli che hanno, che possono posteggiare l'auto gratuitamente nelle strisce gialle e blu, e quelli provinciali sono 45. Ben più seria invece la vicenda Electrolux, non che questo non sia serio, più che altro denota il malcostume. La vicenda Electrolux, allora, il numero uno, Ernesto Ferrario, numero uno di Electrolux, dice: non c'è nessuna intenzione di lasciare l'Italia, non ho mai proposto un taglio del salario al 40% né la riduzione a 6 ore, ma di continuare con 6 ore più 2 di solidarietà. Da dove deriva, anche per spiegarvi il discorso, Electrolux vuole tagliare i salari del 40%? Qualche sindacalista ha estrapolato il salario a 6 ore, gli ha applicato le riduzioni del 10% ed è arrivato al 40%. Ma noi non abbiamo mai proposto questo, non è nei nostri piani industriali, non c'è un singolo documento che abbiamo consegnato ai sindacati al MISE nel quale noi abbiamo chiesto questo. Noi abbiamo chiesto la continuazione, come ad oggi, della solidarietà con l'orario di lavoro 6 più 2. Perché l'abbiamo chiesto? Perché la solidarietà ci scade, Marco, quest'anno in parte e l'anno prossimo, e se io devo fare un investimento che dura 5 anni, devo essere sicuro che l'investimento sia fatto a questi parametri di costo. Quindi quello di cui noi vorremmo ragionare è: uno, vogliamo restare in Italia, non abbiamo nessuna intenzione di andare via, abbiamo tantissimi investimenti fatti nel passato, noi abbiamo investito 250 milioni in 5 anni, quindi vogliamo che l'investimento ritorni. L'Italia è un mercato importante, abbiamo le tre maggiori progettazioni oggi nel paese, però vogliamo essere sicuri che quello che facciamo abbia una base competitiva. E poi sempre il numero uno di Electrolux Italia, Ferrario, dice: non vogliamo arrivare al costo del lavoro di Polonia o Romania, e voglio dire, questa è una banalità, sarebbe anche grave il contrario, ma c'è bisogno di intervenire contro il costante aumento del costo del lavoro in Italia. Per noi il costo del prodotto è molto importante, ed è molto importante il costo del lavoro, che è una delle poche varianti sulle quali possiamo giocare. Abbiamo bisogno però di un aiuto da parte di tutte le parti in modo da cercare di ridurre il costo del lavoro. Noi non vogliamo arrivare al costo del lavoro della Polonia e della Romania, sappiamo benissimo che è impossibile. Quel target che abbiamo messo, che è circa un 15%, ci sembrava un target raggiungibile, anche basato su quello che abbiamo visto accadere in Spagna, ad esempio, dove sono riusciti a tagliare il costo del lavoro circa del 10%, problematiche simili alla nostra. Noi non vogliamo ridurre l'orario di lavoro a 6 ore, non possiamo farlo, non abbiamo gli strumenti legislativi per farlo, e quindi la nostra unica richiesta è tornare, o meglio, prolungare le 6 più 2 ore, con un contributo di solidarietà da parte del governo. Alcuni messaggi su Facebook e sugli SMS per quello che riguarda l'INPS, ne parliamo tra circa 40-45 minuti. No, non è incompleta informazione, l'abbiamo detto più volte che parte del buco INPS deriva dall'assorbimento INDA, ex gestione INPDAP, però ciò non toglie che ci sia un buco, e di questo si può parlare una volta che abbiamo chiarito che è stato assorbito dall'INPDAP. Secondo me è giusto parlarne, visto che di INPS per ora abbiamo parlato solo per le cariche di Mastrapasqua, di suo fratello e della moglie di Mastrapasqua. Allora, alle 18, tra mezz'ora, convocati in Alitalia oggi sindacati per proseguire la trattativa sul piano industriale, si è aperto anche un altro fronte, come molti di voi hanno segnalato giustamente. Ce ne occuperemo, il fronte Benetton Group, che chiuderà 27 negozi a marchio Sisley e United Colors of Benetton sul territorio nazionale nel 2014, e la chiusura dei marchi minori e la chiusura anche dei relativi punti vendita Playlife a gestione diretta. In realtà allora, il gruppo lo chiama programma di rifocalizzazione sul business, e va bene. In realtà la domanda, a mio avviso, oltre ai 200 posti di lavoro che potrebbero saltare, è capire quale è, secondo il gruppo Benetton, il futuro del gruppo stesso, cioè se più concentrato nelle partecipazioni finanziarie a partire da Autostrade, ma anche Autogrill, oppure se ancora come core business concentrato sulla moda. Perché lì a me dispiace molto, l'ho detto in tantissime occasioni, noi eravamo con Stefanelli Benetton negli anni 80 e 70, avevamo già tracciato la strada, e dispiace vedere che gruppi stranieri come Zara o H&M ci hanno superato a destra, non a destra, nella cosa che sapevamo fare meglio, per cui che idea era fare moda a basso costo, però anche con una buona, molto accattivante, con una buona qualità. Allora, vedere che gli spagnoli vengono a fare quello che noi abbiamo insegnato a fare al mondo dispiace da italiano, però attendiamo di sapere dal gruppo Benetton se si concentrerà su quali e su quali strategie, perché forse un po' di distrazione su quel settore c'è stata negli ultimi anni. Professor Marco Fortis, buonasera. Buonasera. Lei insegna economia aziendale alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Parleremo con lei del suo fondo di oggi su Sole 24 Ore. Su Benetton mi dà solo un commento, visto che la stavo citando. Non le fa un po' rabbia vedere che gli spagnoli e gli svedesi ci superano su... questi gruppi stranieri sono nati soprattutto come gruppi commerciali, mentre Benetton è nato anche come gruppo industriale. Il problema è che poi il terreno della competizione commerciale non l'abbiamo saputo mantenere, mentre fortunatamente quella della competizione produttiva sì, spostandoci sui più alti valori aggiunti. Certo. Questo è stato la fortuna dell'Italia, di avere comunque una base produttiva molto importante nella moda, che è riuscita a mantenere la fascia dell'alto di prezzo. Ecco, poi con lei invece vorrei esplorare anche quanto lei scrive, insomma, perché questa polemica, adesso oggi Letta accusa il presidente Squinzi di Confindustria di disfattismo, a me sembra che anche il presidente del Consiglio, che pure è reduce da una missione importante, si stia un po' avvitando, perché le due cose non sono in contraddizione. Comunque ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Letta su Confindustria e poi in rapida sequenza la risposta anche del presidente Squinzi oggi in audizione. Spero che Confindustria, per esempio, colga quello che è successo in questi tre giorni e dia dei giudizi che siano dei giudizi anche di fiducia nel paese, non soltanto di disfattismo come purtroppo ogni tanto si sente. Personalmente, in tutta coscienza, sono convinto che la visione di Confindustria, anche per la complessità dell'attività manifatturiera, è sicuramente quella che ha la miglior, ha sicuramente la più ampia visione su tutti i problemi in generale dell'economia e del paese, perché certamente ritengo che noi abbiamo una visione più ampia rispetto ad altre categorie che rappresentano i consumatori, i commercianti e tanti altri, insomma, proprio per la complessità della nostra attività lavorativa. Questo non vuol dire che noi rifugiamo, anzi noi abbiamo sempre un contatto continuo, assolutamente siamo coordinati, però noi riteniamo che sia nostro diritto dovere quello di dire chiaramente quello che serve in questo momento per far ripartire il Paese. Insomma, ecco, quindi da questo punto di vista non siamo disposti a dare la nostra massima collaborazione e accettiamo qualunque tipo di confronto. Allora, professor Fortis, si può dire che insomma, c'è qualche segnale di ripresa, ma anche ricordare che in questo momento tutti i problemi sono sono ancora sul tappeto. Lei scrive una cosa oggi su Sole 24 Ore, dice: attenzione, noi abbiamo fatto un nuovo record a novembre come surplus commerciale, cioè l'export italiano va bene. Il che non vuol dire che tutte le imprese siano brave, ci mancherebbe, ma quelle che sono sui mercati stanno facendo i numeri, ma siamo, diciamo, a terra con la domanda interna. Io non so, ho la sensazione o che Letta non capisca o che ci sia una vera incomprensione, perché sono due aspetti della stessa situazione. Prego, professore. La situazione è proprio complicata e anche manifesta degli elementi di tensione che francamente poi rischiano anche di interrompere quel poco di dialogo che rimane comunque necessario, perché la situazione finanziaria del paese è complicata e le poche risorse disponibili, ce ne potrebbero essere di più solo in presenza di riforme radicali, di tagli importanti alle spese improduttive che però un governo stabile ma non forte non può mettere in atto. E quindi c'è uno stallo, perché fin tanto che non avremo veramente un governo forte che duri in carica 5 anni con una nuova legge elettorale che possa assicurare un governo di tal fatta, sarà difficile produrre anche quelle riforme importanti che possano far emergere risorse in un paese che paga ogni anno 85-90 miliardi di interessi sul debito pubblico e che fa una fatica terribile a stare sotto il 3% del deficit PIL. Noi siamo arrivati per il rotto della cuffia a questa situazione. Quindi da una parte l'economia reale ha bisogno di interventi, e ha bisogno di interventi importanti per rilanciare una domanda interna senza la quale il 70% delle imprese e del commercio rimangono fermi, non creano occupazione, anzi rischiano di creare disoccupati. Nello stesso tempo, soltanto con un governo realmente forte, non soltanto stabile, potremmo avere un cambio di passo, a mio avviso. Ecco, lei citava il fronte export, cioè qui noi abbiamo un'Italia a due velocità, lo ricordiamo spesso, no? Chi va a esportare, chi è sui mercati, se la passa abbastanza bene, poi settore per settore, ma insomma se la passa abbastanza bene. Il problema, professor Fortis, è che l'illusione di poter vivere solo di export è un'illusione, punto, nel senso che se non hai la domanda interna, i consumi degli italiani e in generale anche degli europei, di solo export non campi. Ma questo vale per tutti i paesi avanzati, in effetti, cioè ricerche molto accurate, econometriche, hanno dimostrato che negli ultimi 25 anni, a parte la Germania, che però ha potuto vivere diversamente da tutti gli altri perché ha sfruttato l'euro come un volano straordinario, proprio arricchendosi con l'export verso i paesi del sud Europa, ecco, a parte questo specifico caso, tutte le altre economie avanzate, dagli Stati Uniti alla Francia, al Giappone, la stessa Germania di oggi cresce soltanto con la domanda interna. Se tu blocchi la domanda interna, che normalmente ha assicurato tra il 90 addirittura il 120-130% in media della crescita del PIL negli ultimi 20 anni nel mondo avanzato, si blocca tutto. L'Europa, a mio avviso, ha commesso il drammatico errore di creare la moneta forte di quella che doveva essere l'area più ricca del mondo e sta ora impoverendo quest'area ricca e rimane solo con una moneta forte nel cambio, ma purtroppo neanche tanto stimata dagli investitori internazionali. Allora, io avrei preferito, lo dico in maniera molto aperta, visto che poi elogeremo anche la missione di Letta, avrei preferito, più che una polemica su le imprese disfattiste, un bel attacco di Letta a questa Europa. Oggi poi ascolteremo, ci ha pensato il Presidente della Repubblica Napolitano, dicendo questa Europa di sola austerità si sta avviluppando in un circolo vizioso, per cui di sola austerità si muore, cosa che modestamente diciamo da anni. Cioè, mi sarebbe piaciuto vedere lo stesso vigore nei confronti della Germania, dell'Europa, di Bruxelles, non tanto nei confronti delle imprese in senso stretto, perché poi se io vado a vedere le classifiche, ne cito alcune a caso, noi siamo terzi dopo Germania e Giappone nella meccanica e nell'elettronica, quarti dopo Stati Uniti, Francia e Germania nei mezzi aerospaziali, secondi dopo la Cina nei prodotti in ferro e acciaio, terzi dopo Cina e Germania negli altri prodotti in metallo, secondi dopo la Francia in vino e bevande, primi in assoluto nei prodotti a base di cereali, secondi dopo la Cina nei derivati di ortaggio e frutta, secondi dopo la Cina anche in calzature, articoli di cuoio, abbigliamento non di maglieria, occhiali e montature, mobili e lampade, prodotti in ceramica. Cioè, non ce la giochiamo male nelle Olimpiadi, diciamo, della manifattura, se siamo secondi dopo la Cina o secondi dopo la Germania, no? Non è che siamo secondi dopo altri paesi minori. Quindi mi piacerebbe che si capisse che però tutto questo da solo non basta. Mi dica due misure immediate che lei farebbe, Fortis. Ma intanto bisognerebbe riuscire forse a spiegare più chiaramente in Europa che l'Italia è un paese che pur con tutti i suoi problemi ha prodotto negli ultimi 18 anni oltre 600 miliardi di surplus primario dello Stato, quindi il cash flow industriale del nostro paese, anche se fatto soprattutto con tasse anziché tagli di spesa, è stato eccellente, migliore di quello della stessa Germania, mentre la gran parte dei paesi avanzati sono in deficit. Quindi noi abbiamo un problema cruciale che paghiamo questi 70 prima, poi 80, adesso quasi 90 miliardi di interessi sul debito pubblico l'anno, pur avendo un debito pubblico che è meno alto di quello della Germania ed è alto come quello della Francia ormai in euro, e questo ci costringe ad uno sforzo fiscale che impedisce qualunque tipo di politica economica, perché non ci sono le risorse per farla. Quindi il primo punto è spiegare all'Europa che se vuole che l'Europa rimanga viva da qui ai prossimi 10 anni non può esserlo con un'Italia meno matta nel pagamento di interessi assurdi al di fuori di qualunque razionalità. E non ha ancora considerato il fiscal compact lei, perché sì, poi nel 2015 arriverà pure quella mazzata secondo sì, ma gli il fiscal accordi. Compact, io sono fortemente critico su questo fiscal compact, vabbè, perché a mio avviso è un qualche cosa che porta dritto tutta l'Europa nella deflazione. Certo. Stiamo confondendo il rigore fiscale, che è una cosa giustissima, con l'applicazione meccanicistica di regolette e parametri che rischiano in un momento di crisi economica e di disoccupazione così elevata come c'è in Europa di produrre un disastro. Poi invece sul piano concreto, se recuperassimo degli spazi, è chiaro che il famoso taglio del cuneo fiscale e anche una maggiore possibilità di lasciare margini di manovra per gli investimenti in ricerca e sviluppo sono due elementi fondamentali per un paese come l'Italia, che anche se ha ufficialmente dei bassi parametri di spesa di ricerca sul PIL, in realtà fa moltissima innovazione. Se riuscissimo a far emergere l'innovazione informale, a permettere a questa stessa innovazione informale di avere dei vantaggi fiscali, a mio avviso moltiplicheremo le nostre possibilità di innovazione e di competitività sui mercati internazionali. Resti con noi ancora un minuto, le informazioni sul traffico, poi chiudiamo a mio avviso su due riforme. So che siamo noiosi, ma noi insistiamo. Due riforme su cui avrei voluto sentire anche dal Presidente Consiglio Letta un po' più di coraggio, anche se si vanno a intaccare, a toccare interessi costituiti. Le analisi condotte individuano nella complicazione burocratica una delle principali cause dello svantaggio competitivo del nostro Paese nel contesto europeo e nell'intera area OCSE. Svantaggio che sento pesante anche personalmente ogni giorno sulla mia pelle di imprenditore. Attendere anni un'autorizzazione per avviare una nuova attività o per ampliare uno stabilimento vuol dire impedire a un'impresa di nascere e crescere, di creare nuovi posti di lavoro e contribuire al benessere di una comunità e del paese. Il paradosso è che sulle analisi tutti, almeno a parole, concordano. Tutti si indignano quando si riportano casi di mala burocrazia. Poi, quando si tratta di riparare, semplificando norme e procedure, abolendo inutili passaggi e limitando i poteri, e spesso le vessazioni, della macchina burocratica, tutto si rallenta, si perdono di vista gli obiettivi e una definizione della questione non si concretizza. Allora, non sarà l'eloquio, diciamo, da Churchill, però il messaggio è molto chiaro di Squinzi. Tutti d'accordo sul taglio della burocrazia, su quelli che sono oneri impropri per le imprese italiane. Poi, quando c'è da fare un vero semplificazione burocratica, professor Fortis, tutto si blocca. Allora, io dico una cosa: a me sarebbe piaciuto che il Presidente del Consiglio, invece che polemizzare sul disfattismo, manco fossimo in guerra, ammettesse che c'è un problema della classe politica italiana nel toccare i luoghi di potere vero, della burocrazia vera, non sono gli impiegati, dei dirigenti ministeriali, dello snellimento burocratico, e anche un coraggio nel dire: signori, prendiamo le risorse da qualche parte e le buttiamo tutte nella busta paga, cioè nel cuneo fiscale, perché dobbiamo far ripartire la domanda interna, anche scontentando le lobby, anche di qualunque genere, e anche perdendo dei voti sul fronte del pubblico impiego, dei dirigenti col loro potere di ricatto. Fortis. E questo è un problema sicuramente oggettivo, questo, anche perché se vogliamo creare posti di lavoro nei settori produttivi bisogna avere finalmente il coraggio di aggredire i posti di lavoro nei settori improduttivi, e uno di questi è proprio la burocrazia. Ma voglio dire, secondo lei il taglio della busta paga, per essere efficace, per far ripartire la domanda interna, di quanto stiamo parlando? Perché poi il governo mi risponde ogni volta che ma noi abbiamo messo il fondo da 5 miliardi. Sì, a parte che in quel fondo lì ci hai messo dentro anche le missioni italiane all'estero, la cassa integrazione in deroga, ma 2 miliardi di euro spalmati sulle buste paga sono nulla. Cioè, dal suo punto di vista, per far ripartire i consumi interni, io in busta paga, quanto devo vedere abbassare la mia aliquota fiscale? Beh, io credo che qui sia molto difficile fare delle cifre precise, però è un dato di fatto è che nel momento in cui si arresta l'aumento della disoccupazione avviene una svolta nel ciclo, e da quel momento in poi, se si riesce a ristabilire un minimo di fiducia e dare un po' più di possibilità di spese, soprattutto ai salari più bassi, si ricrea quel consumo che è quello che è stato maggiormente danneggiato da questa crisi, che è il consumo delle fasce basse e medie della popolazione, con redditi bassi e medi. È qui che bisognerebbe intervenire. D'altra parte, le risorse probabilmente necessarie per generare un improvviso shock da domanda di questo tipo sono risorse che sarebbero dell'ordine sicuramente di più di una decina di miliardi di euro. Per un governo che in questo momento continua a prendere bacchettate sulle dita dal commissario Ren, è un po' difficile riuscire a mettere in campo. Io adesso non voglio sostituirmi al governo, però penso che il paese, in buona parte, capirebbe, guardi, dico anche una bestemmia, anche una tassa sul patrimonio, una patrimoniale, a patto che questa si accompagnasse poi a un taglio brusco della spesa pubblica improduttiva, cioè veramente vedere la chiusura di alcuni enti, l'eliminazione, non fisica, di alcuni dirigenti, il tetto vero agli stipendi, la riduzione vera dei vitalizi. Allora, secondo me, potresti chiedere anche, con una vera analisi fiscale, un contributo, una tantum di carattere patrimoniale, perché se questo è per poi far uscire il paese da una disoccupazione che sarà in aumento, Letta deve riconoscere questa cosa, perché sennò qua sembriamo dei dissociati, uno dice che c'è la ripresa, la disoccupazione continua a aumentare. Comunque, professor Fortis, mi dia una buona notizia. Le buone notizie sono essenzialmente che comunque un minimo di risparmio si sta ricostituendo. Questo vuol dire che il ceto medio, se fosse messo nelle condizioni di avere un po' più di fiducia in questo paese, forse potrebbe ricominciare a consumare un poco. Quindi la domanda interna, dico che riparte a razzo, ma effettivamente un minimo di ripartenza potrebbe esserci, e soprattutto che se il ciclo internazionale non incontra delle difficoltà, si è parlato di rallentamento della Cina, ma spero che questo non avvenga in maniera importante, possa continuare questo dinamismo dell'export, che è quello che comunque ci ha permesso di ridurre, oltre che con il calo dell'import, in maniera notevole il nostro disavanzo con l'estero complessivo, dove ormai siamo in grado, nonostante il deficit energetico, di essere inattivo. Quindi abbiamo passato la svolta in cui il surplus manifatturiero è in grado di pagare tutto il deficit, sia delle materie prime che dell'energia. Sì, mi viene in mente un sogno, magari lo dico dopo, perché veramente vedo una dissociazione totale. Cioè, qui si dice che gli imprenditori non facciano i disfattisti, e non si dice nulla sui burocrati. E il sogno lo rimandiamo a dopo il GR, commenteremo anche la borsa, più 0,60% la chiusura, e poi l'INPS e Napolitano in Europa. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Grazie al professor Marco Fo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per la seconda parte di Focus Economia. Il nostro sogno è che, invece che accusare di disfattismo gli industriali, il Presidente del Consiglio dicesse: bravi a tutti quei piccoli, medi e grandi industriali che sono riusciti a ottenere questi numeri in questi anni sull'export, nonostante noi governo e noi classe politica non si sia riusciti a riformare una burocrazia che lasciamo perdere l'aggettivo, nonostante le tasse siano aumentate, nonostante per via delle tasse aumentate i consumi siano calati, nonostante la macchina della pubblica amministrazione sia ancora pletorica e troppo costosa e improduttiva in molte sue parti. Bravi, perché nonostante questo siete riusciti ad aumentare le quote di export e arrivare primi, secondi o terzi rispetto a paesi piccoli piccoli come Cina o Germania. Ma è un sogno, chiaramente. Mi mancava l'accusa di disfattismo. Invece va riconosciuto che la missione del premier Letta e del governo italiano negli Emirati Arabi, non abbiamo nessun problema a riconoscerlo, è stata una missione che non poteva portare, diciamo, investimenti miliardari, ma ha portato più di un risultato. Non c'è solo Etihad nel capitale di Alitalia, visto che l'accelerazione è più che positiva, la Lufthansa se la mette via, non sono aiuti di Stato, ce l'ha chiarito bene anche ieri il vicepresidente della Commissione Europea. Dicevo, nonostante non c'è solo Etihad su Alitalia, c'è anche il Qatar che ha annunciato che vuole rafforzare il suo capitale nell'Eni, attualmente al 2%, ma il Qatar è interessato anche a un ingresso in Poste Italiane e ci sono accordi in vista per Finmeccanica con commesse di elicotteri, Augusta Westland, di radar, della Selex, e poi il gruppo Salini Impregilo Todino e Ansaldo Breda, l'altro gruppo, saranno coinvolti nella costruzione delle infrastrutture in vista dei mondiali di calcio del 2022. E poi notizia di oggi, l'accordo con il fondo del Kuwait, con il fondo sovrano del Kuwait, che investirà 500 milioni di euro in Italia in imprese italiane, o meglio li investirà nel fondo strategico italiano della Cassa Depositi e Prestiti. E Letta dice: gli accordi all'estero sono anche atti di politica interna. Questa scelta e questi soldi che riportiamo a casa sono la migliore risposta al disfattismo imperante nel nostro paese. È il segno che fuori dall'Italia credono nelle possibilità dell'Italia, ed è il segno che lavorando gli obiettivi si raggiungono e i risultati si raggiungono. Considerazione: ho letto in questi giorni molti ragionamenti sulla distinzione tra politica interna e politica estera. Questa è politica interna, questa è politica economica interna, questa è politica industriale, questa è politica di sviluppo del nostro paese. E quindi bene, bravo Letta nella missione negli Emirati Arabi. La borsa oggi poco mossa, possiamo anche farla, diciamo, come aggiornamento. E mi riferisco, al di là di questa mattina molto si è temuto per Tokyo, impicchiata meno 4,20%. In realtà poi le borse europee hanno chiuso tutte abbastanza positive, tranne Francoforte e leggermente Londra. Francoforte meno 0,60, Londra meno 0,20, Parigi più 0,20, Milano più 0,60%. Da noi va particolarmente bene UX più 6,60% sull'ipotesi che la concorrente Zalando si quoti bene. Anche Intesa San Paolo, perché la Bad Bank, in attesa di stress test, cioè l'idea che Intesa, è circolata sui giornali, possa creare una banca dove far confluire tutti quei crediti che difficilmente verranno che ritorneranno in banca, mettiamola così, piace al mercato più 2,30%. La Fiat in altalena, ma chiude bene poi alla fine più 2%. Anche il Monte dei Paschi più 1,80%. A mercati chiusi la presidente della fondazione Antonella Mansi ha detto che la Fondazione Monte dei Paschi è in contatto con potenziali investitori esteri interessati ad acquistare la quota posseduta nel Monte dei Paschi. Non c'è invece nessuna trattativa della Fondazione Monte dei Paschi con fondazioni bancarie italiane. Bene anche Enel, in attesa dei conti trimestrali più 1%. In generale sulle banche giornata positiva, la Pop Milano più 2,80%, Monte dei Paschi e Intesa le abbiamo già dette, ma c'è anche UbiBanca più 1,40%, UniCredit più 1,12%, come il Banco Popolare, e Generali più 0,70%. Negativa Luxottica dell'1,60%, Snam dell'1,40%, Saipem dell'1,30%, Terna dello 0,90%, World Duty Free meno 0,50%, Eni meno 0,50%, come la Popolare Emilia Romagna. In assoluto miglior titolo Bastoggi, più 18,70%. Bene, andava bene anche Carige, voci di interesse di Bonomi, ex BPM. Invece male oggi Media Contact, meno 7,20%, e poi Banca Profilo, meno 4,40%, Screen Service Broadcast, meno 4,50%. E sono usciti ora i conti dell'Enel, quindi ve li do in diretta. Chiude 2013 con ricavi 80,5 miliardi di euro, in calo del 5%. Però il margine operativo lordo cresce del 7,5% a 17 miliardi di euro, e l'EBITDA forse più importante ancora dei ricavi, quindi in crescita del 7,5%. Veniamo all'Europa, dove c'è in collegamento con noi Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore, che oggi ha scritto anche un fondo sull'Europa, ma soprattutto vorrei con lei commentare l'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Adriana, buonasera. Buonasera. Allora Adriana, a mio avviso, al di là diciamo delle contestazioni della Lega, queste mi interessano poco, poi sono... Il Presidente della Repubblica ha tracciato, perché tu dicevi insomma che Europa, con che Europa dovremmo avere a che fare, hai fatto una bellissima analisi di come i vari paesi abbiano poi tendenze molto nazionali, la grandeur francese, la Germania che usa l'Europa come una SPA, se non ricordo male, in cui l'azionista di maggioranza conta, la Spagna che vorrebbe diventare egemone nel Mediterraneo, e l'Italia in stato confusionale un po', perché noi abbiamo fatto anche dei semestri di presidenza importanti, arriviamo un po' in ordine sparso. Allora, il Presidente della Repubblica Napolitano ha detto, a mio avviso, una cosa che ha un grandissimo senso, cioè è inutile contestare o dare adito alle contestazioni nei confronti dell'euro, basta con le agitazioni distruttive contro l'euro, e c'è una vacua propaganda e scarsa credibilità nel discorso di quanti hanno assunto atteggiamenti liquidatori verso quello che abbiamo edificato nei decenni scorsi. Però attenzione, l'austerità a ogni costo non regge più, e anche se nulla può farci tornare indietro dall'Unione Europea, c'è un circolo vizioso generato da politiche restrittive. È del tutto evidente che la principale fonte del disincanto, della sfiducia e del rifiuto verso il disegno europeo e innanzitutto verso l'operato delle istituzioni dell'Unione risiede nel peggioramento delle condizioni di vita e dello status sociale che ha investito larghi strati della popolazione nella maggior parte dei Paesi membri dell'Unione e dell'Eurozona. Il dato emblematico riassuntivo di tutti gli effetti negativi e traumatici della crisi è l'aumento della disoccupazione e l'impennata drammatica della disoccupazione giovanile. Appare dunque naturale che nel dibattito pubblico e nel confronto politico abbia assunto una netta priorità il tema di una svolta capace di condurre a quell'effettivo rilancio della crescita e dell'occupazione da ogni parte considerato indispensabile e auspicato. Si ritiene cioè che non regga più una politica di austerità ad ogni costo. Allora Adriana, secondo te questo potrebbe essere la linea della presidenza italiana? Io non ho ancora capito cosa porteremo noi nel nostro semestre. Però quello del Presidente della Repubblica il tentativo di dare una linea a quella che potrebbe essere i 6 mesi di presidenza italiana? Beh, certamente è un segnale molto, molto forte questo, nel senso che diciamo, sia pur sotto traccia in Italia, in diversi settori della politica, questo tipo di esigenza è avvertito in modo molto forte. Lo stesso Renzi nei mesi scorsi ha detto chiaramente il 3% per il deficit, per esempio, è una sorta di reliquia del passato. Bisogna quindi trovare nuovi margini di flessibilità. Il governo Letta si batte perché venga attivata a nostro favore la clausola degli investimenti, quella che permette ai paesi cosiddetti virtuosi, in particolare il nostro che è uscito dalla procedura antideficit, di poter, diciamo, sforare il 3% e così, diciamo, rosicchiare quei 5-6 miliardi che potrebbero essere iniettati nell'economia. Sono delle linee di tendenza che ci sono nelle stesse, voglio dire, Forza Italia, c'è una parte del partito che milita per queste cose, e il presidente Napolitano spezza una lancia, diciamo, per dire non rifiuta il rigore, ma dice va temperato, cose che diciamo non sono, si ripetono da tanto tempo, ma finora su questo la Germania ci ha sentito poco. E lo stesso patto di coalizione con la SPD fatto dalla Merkel non contempla un rilassamento dei vincoli, però certamente Napolitano dice che questa è la via maestra, perché questa Europa ha bisogno di consenso, non può continuare a vivere senza il consenso dei suoi cittadini. Al tempo stesso, secondo me, ha anche indicato la via della politicizzazione a livello europeo della politica europea, cioè per arrivare a una visione politica europea non solo dall'alto ma anche dal basso, per galvanizzare i cittadini sulle tematiche dell'Europa che, come noi ben sappiamo, in generale sono respingenti tra la gente più che... Allora Adriano, adesso ho le informazioni sul traffico, poi ti vorrei chiedere solo un'ultima cosa, visto che anche il Wall Street Journal oggi dice l'euro dopo anni di instabilità, alla luce anche di quello che è successo con i paesi emergenti, con le loro valute, si sta riappropriando di un ruolo di valuta forte, quindi riconosce, diciamo, questa... Vorrei capire perché l'Europa, come tu titoli, è prigioniera di se stessa, che sembra quasi dire che il più grosso nemico dell'Europa è l'Europa stessa. Dopo il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, perché l'Europa è prigioniera di se stessa, Adriana? Perché non è Europa, cioè in definitiva se ne parla tanto, ma quello che muove l'Europa oggi particolarmente sono gli interessi nazionali di ciascuno, quindi l'Europa è il multiplo di interessi divergenti e quindi non è Europa e quindi conta poco sulla scena internazionale. Detto questo, l'euro è un'altra storia, perché l'euro invece ha una disciplina interna molto forte e ha la Germania che informa questa disciplina e la dirige. In fondo l'euro non è altro che un marco allargato e quindi ha una credibilità notevole, riconosciuta dai mercati, e ha anche fondamentali buoni, perché non ci dimentichiamo che in Europa si fanno delle gran battaglie di super rigore, di raddrizzamento dei conti, ma se si guarda le medie dei valori europei dell'euro, dell'eurozona, si vede che per esempio il nostro debito medio è arrivato al 90%, gli Stati Uniti sono sopra il 100%, il Giappone al 200%. Quindi e la Inghilterra c'ha una sterlina che sui mercati va bene, ha un debito che rasenta le cifre europee, forse anche le supera. Quindi sono due storie parallele quelle dell'euro e dell'Europa, sì. anche se sono due storie convergenti, però non è che siccome l'Europa va male l'euro debba andare male sui mercati, l'euro è una storia parallela. Questo lo vediamo anche tutti i giorni. Grazie Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Da Bruxelles all'INPS, dall'euro e Schulz a Mastra Pasqua, il volo è veramente pindarico, vediamo di non schiantarci però, dai. Non voglio. voglio parlare di Mastrapasqua né del consesso quasi totale che lo elesse nel 2008, anche il PD, poi nessuno si accorse delle cariche né della condanna per aver comprato i voti, 10 mesi di condanna. Voglio parlare dei conti dell'INPS, perché oggi l'allarme lo pone Fabio Pavese del Sole 24 Ore. Buonasera Fabio. Buonasera a te agli ascoltatori. Ti dico subito che ti hanno contestato già via Facebook e SMS dicendo che quello che tu scrivi, e cioè attenzione continua aumentare il trasferimento dello Stato all'INPS dai 73 miliardi del 2008 ai 112 del 2013, è dovuto in primo luogo all'INPDAP, quindi ditela tutta sul buco da 14 miliardi e mezzo. Hai 3 minuti per replicare. Velocissimi. L'INPS chiude per il terzo anno consecutivo in perdita. Ovviamente c'entra l'IMDA, perché nel 2012 l'INPS ha assorbito l'ente dei dipendenti pubblici, che è un ente dissestato, perché è 10 anni che chiude in perdita. Però c'è un'altra ragione, che i contributi sono scesi in virtù della crisi economica e il bilancio dell'INPS non sta più in piedi, perché le entrate sono molto più basse delle uscite. Banalmente è un bilancio familiare: se calano le entrate e aumentano le uscite, tu avrai un bilancio sempre in negativo. Sul fatto vorrei tranquillizzare: le pensioni non sono a rischio, cioè l'INPS di fatto non può fallire, è posseduto al 100% al Ministero dell'Economia. Che cosa accade però? Che se tu ogni anno mi chiudi in perdita per oltre 10 miliardi, chi è che interviene a colmare il buco? Qualcuno deve pur farlo. Bene, interviene lo Stato, cioè noi, quindi i contribuenti italiani, e questo porrà un problema sulla spesa pubblica, perché l'INPS gestisce oltre 300 miliardi, cioè il 40% della spesa pubblica passa dall'INPS. Cottarelli deve tagliare 32 miliardi, ma se ogni anno lo Stato italiano, da quel 2016, dovrà mettere un assegno di 10 miliardi in più all'anno, Cottarelli ha una strada tutta in salita. Il tema vero è il tema che questo è il danno del sistema retributivo, perché con la Fornero sono diminuite le uscite delle pensioni, per fortuna, perché se non c'era la Fornero il bilancio era ancora peggio. Solo che la riforma Fornero andrà a regime dal 2020 in poi, quando ognuno avrà la pensione corrispondente ai contributi versati. Tuttora noi abbiamo persone che sono in pensione con il retributivo e le cui pensioni non corrispondono ai contributi versati. Questo è il tema chiave, cioè lì andrebbe riequilibrato lo sbilancio, ma un'iniziativa che può fare solo il governo. Sì, si potrebbe chiedere, soprattutto quelle pensioni medio-alte, visto che io penso ai baby pensionati, anche penso a tutti quelli che sono andati in pensione non con il contributivo, ma con il retributivo. Di dire, guarda, per il bene del paese, forse una tantum, ripeto, nessuno vuole toccare le pensioni di 800 euro al mese, no, ma ci mancherebbe. No, c'è una proposta. Però visto che poi il Parlamento si è arenato sulla riforma Meloni proprio sulle pensioni d'oro, magari per quelli andati in pensione con il meccanismo retributivo. Quindi non c'è un problema di tenuta dei conti INPS? No, c'è un problema che le pensioni verranno comunque pagate, perché poi questa cosa crea allarme tra chi la percepisce e chi ovviamente versa i contributi. L'INPS non può ovviamente fallire. Il problema è che la pezza lo mette lo Stato, e lo farà alzando le tasse inevitabilmente. O comunque non risparmiando dagli eventuali tagli di Cottarelli, quindi... Certo. Non vedendo poi in un calo delle tasse l'effetto speriamo benefico della spending review. Bravo, chiarissimo, in 3 minuti vinci il premio sintesi, il premio Sarò Breve dell'edizione quotidiana. Allora, cara Floriana, che mi scrive: dopo le affermazioni della Cerretelli, hai ancora voglia di difendere l'Europa e la tua adorata Germania? Che io adori la Germania, lo scopro grazie a lei, ma me ne farò una ragione. Intanto do appuntamento a lei e a tutti gli ascoltatori a domani dalle 17 in poi, e auguro intanto una buona serata. Radio 24, la passione si sente.